America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ieri la borsa, l'indice Dow Jones, ha chiuso con un ribasso del 2,5%, certamente molto meglio dei livelli a cui hanno chiuso le borse europee. Perché? Beh, lo vedremo questo, perché l'Europa sembra avvolta da una nuvola di fumo, di incertezze, incapacità dei leader di agire, reagire. E dunque cosa si fa? Beh, si vendono i titoli in Europa, anche in Italia ovviamente e purtroppo, e si rimpatriano i capitali qui negli Stati Uniti. Ho approfittato di questa straordinaria pagina che abbiamo pubblicato sul Sole 24 Ore con 5 proposte del nostro giornale per contribuire a un dibattito europeo che sia, diciamo, più concreto e meno affidato alle parole. Queste 5 proposte sono: fatto l'euro, bisogna fare il governo dell'economia europea, manca il ministro delle finanze europeo. La BCE deve avere più flessibilità, non è come la Fed può occuparsi anche come missione di occupazione. Bene, la BCE non può farlo per statuto, vogliamo cambiarla questa rigidità, l'idea di un bond, di un grande bond europeo che raccolga capitali da destinare a investimenti in infrastrutture, è un progetto di crescita per il continente europeo. Un'altra grande missione obbligazionaria per raccogliere capitali sempre a nome dell'Europa è avere questo fondo europeo a disposizione di paesi in difficoltà nel momento in cui debbono rinegoziare dei debiti in scadenza e quindi possono avere la possibilità di vedere degli spread sui tassi di interesse ridotti grazie a questo fondo. Infine, settore bancario, bisogna far sì che ci sia un mercato bancario europeo. Siamo ancora in un contesto mentale di un mercato bancario nazionale. Bene, di questo nostro progetto ho parlato con Mickey Levy, che è il capo economista di Bank of America, la seconda più grande banca americana, uno degli economisti più rispettati in questo paese, per sapere cosa pensa di queste nostre proposte, di queste proposte del Sole 24 Ore. You wonder whether all of these, if implemented, would rebuild credibility and aim in the right direction. I fully agree with the Eurobond issuance to finance infrastructure. That makes sense. You desperately need pro-growth policies. Mickey Levy ha le idee molto chiare, devo dire, su questi nostri 5 punti. Alcuni li condivide, altri li condivide con delle precisazioni. Dico subito quelli che condivide immediatamente. I 2 punti su cui secondo lui non ci sono dubbi sono quelli sul bond da emettere per raccogliere capitali da destinare a investimenti in infrastrutture per la crescita del continente europeo, e la seconda quella di allargare il settore del credito, di creare un mercato del credito a livello europeo. Questo aumenterebbe la concorrenza fra le banche, renderebbe tutto, dice, molto più semplice anche da un punto di vista del controllo del rischio. Quindi il denominatore comune di questi 2 punti, sottolinea Levy, è che sono 2 iniziative votate alla crescita. Oggi l'Europa non cresce, nessuno si preoccupa della crescita, ci si preoccupa dell'austerità, di stringere i cordoni della borsa, di tagliare le spese, ma non ci si preoccupa di togliere tutte quelle rigidità sovrastrutturali che in qualche modo soffocano quello che potrebbe essere il potenziale di crescita europeo. E dunque queste 2 iniziative, secondo lui, si possono prendere ad occhi chiusi. But just establishing a finance ministry without restructuring the economic system would just be another bureaucracy that has no meaning or implication. Mickey Levy non ha un dubbio sulla creazione di un ministero europeo sovranazionale con autorità sulle altre nazioni, però vuole precisare: bisogna che questo sia un vero e proprio ministero delle finanze e bisogna che gli stati membri rinuncino alla loro sovranità fiscale, altrimenti fare un ministro per il gusto di farlo sarebbe soltanto creare un altro strato di burocrazia. È chiaro che ci si deve muovere in avanti, è chiaro che da una situazione di crisi come questa che stiamo vivendo ci sono 2 vie di uscita: c'è la via d'uscita del fallimento, dell'implosione, ma c'è anche la via d'uscita del passo in avanti, dello extraordinary leap forward. Per farlo bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo e, dal mio punto di vista, credo che immaginare una rinuncia di una certa autonomia fiscale non sia che un fattore positivo. So it's highly uncertain, even suspect, that giving the ECB more flexibility and a mandate to target real growth or inflation would help matters. Altro punto, la Banca Centrale Europea. Andrebbe bene dare più flessibilità alla Banca Centrale Europea, però sottolinea Mickey Levy, e qui aggiungo anche l'altro punto, e cioè la creazione di una emissione obbligazionaria per raccogliere dei capitali che possano aiutare quei paesi che si trovano in difficoltà dal punto di vista della liquidità e dal punto di vista della raccolta sui mercati internazionali, mercati internazionali che li penalizzano e che costringono questi paesi, come l'Italia, a pagare addirittura 450 punti al di là di quello che avremmo pagato normalmente. Ecco, se ci fosse questa obbligazione si potrebbe ridurre questo spread, però l'avvertimento di Michi Levi su questi due punti, cioè sulla maggiore flessibilità della banca centrale e sull'emissione obbligazionaria, è che sarebbe illusorio pensare che il problema europeo si risolve grazie a una soluzione monetaria. La soluzione monetaria può aiutare, ma il vero problema dell'Europa è un problema di rigidità, è un problema di miopia, è un problema di riforme. Fino a quando non ci saranno queste riforme, non sono soltanto le riforme per la Grecia o quelle che stiamo cercando di fare noi, sono delle riforme che debbono essere a tutto campo, non si andrà avanti. E quindi sia un'iniezione monetaria da parte della BCE, sia un'iniezione monetaria da parte di un'emissione obbligazionaria finirebbero per essere soltanto dei palliativi di breve termine. Possono funzionare, dice Levi, se sono un ponte. È chiaro che per fare delle riforme ci vuole tempo, ci vuole fatica. Per evitare che dal momento in cui si comincia a fare una certa riforma al momento in cui questa riforma è compiuta ci siano dei problemi di liquidità che possano mettere a rischio la tenuta dell'economia, ecco, allora sì che può essere utile avere un bond o avere un intervento della Banca Centrale Europea. Devono essere però degli interventi temporanei, devono essere degli interventi a ponte. Il messaggio è chiaro: risolviamo i nostri problemi alla radice, altrimenti non ci saranno palliativi monetari che tengono. Ecco, in tutto questo ovviamente che impatto ha la crisi italiana sull'America? Un impatto non da poco. Gli investitori americani sono spaventati, ci sono delle fughe verso la qualità. Non è un caso che ieri ci siano stati dei crolli sulle borse, ma che i rendimenti sui titoli decennali americani siano diminuiti al di sotto, pensate, del 2%, l'1,99%. C'è stato un rally sul mercato obbligazionario, mentre istituzioni finanziarie come Bank of America, come Goldman Sachs, hanno subito delle forti perdite. Questo perché? Perché sono esposti al debito europeo, molte di queste istituzioni sono esposte al debito italiano. C'è stato il caso di MF Global, che è fallita per una eccessiva esposizione al debito italiano. Improvvisamente c'è stata un'atmosfera spooky, come si dice a New York, spaventevole, un termine che si usa per Halloween che si è celebrato un paio di giorni fa e che ha ancora lasciato il segno. Cosa significa questo per noi? Significa che c'è un outflow di capitale, significa che gli investitori americani preferiscono vendere in perdita, recuperare il loro capitale e investirlo magari in America. Il conto che abbiamo fatto da un punto di vista di outflow sulla base di dati statistici che abbiamo avuto dal Dipartimento al Commercio italiano e americano sono di 23 miliardi di dollari netti per l'Italia a livello complessivo nei confronti dell'estero, una percentuale minore, circa 5, 6, 7 miliardi di dollari riguarda l'America, ma da una stima complessiva di quello che è successo negli ultimi 3 mesi, ho parlato con degli esperti che sostengono che, diciamo, i timori, le paure nei confronti del nostro paese per questa nostra incapacità a reagire per un governo che promette ma che poi alla fine non fa le cose che deve fare preoccupa gli investitori. Calcolo dell'outflow complessivo per questo trimestre, sempre una stima naturalmente, un analista me lo ha stimato in qualche decina di miliardi di dollari. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La casa discografica Brassland, che sta compiendo i suoi 10 anni, ha deciso di fare dei download gratuiti su internet. Ogni giorno ne farà uno diverso. Quello di oggi, dei National High Beam. But I am tall as high beams, shut up my back. And I am straight as briars, come bending past. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.